ti dice ci vediamo domani, e tu lì con il cuore tra le mani. Le cose che dicono su di te fanno di te una veda da sbranare. E prepari il chiodo per appenderci l'anima, aggrappato ad un nulla, aggrappato ad un manichino per la rinascita. A quel manichino per la rivincita. A quel manichino. Ma non smetti di crederci, quel manichino, angelo assassino. Non smetti di sperare, non smetti di sognare. Coloro che ti hanno lasciato vedranno che non ti sei abbandonato. Lavori oggi per sognare un domani, perché spesso la vita è di chi fatica.